Osservato, anche appassito il picciol fior, il suo profumo aveva ancor. Notte di nel carcere oscuro, io così carmente lo giuro, e mi inebriai delle parole, e ti invocai lontano ancor. Io quest'amor diceva, ma nel dolore ripeteva, per qual destino mi a veder sul mio cammino. Poi, e di me stessa ero l'orrore, e non aveva in questo cuore, e non sentia che un solo desir, una sola desir, una sola pena sia a te. Carmel, io t'ho